Dico una cosa, Presidente Guzzetti, ma il governo Monti è un governo, visto che lei è vero che non fa il banchiere, ma fa il presidente delle fondazioni, che sono un faro di riferimento nel mondo bancario. Il governo Monti è un governo amico delle banche? No, il governo Monti, da che è al governo, ha fatto una serie di provvedimenti che hanno fortemente colpito le banche nel nostro paese. Quindi la favola metropolitana che questo è il governo dei banchieri serve solo a quelli che in Parlamento e fuori del Parlamento, non avendo più nemici da attaccare, hanno pensato bene che adesso identificano la banca come il nemico sul quale tutti i giorni con fissità paranoica concentrare le loro polemiche. Il governo Monti ha fatto, lei si documenti presso l'ABI, che naturalmente è l'associazione delle banche, lei vedrà che in tutti i provvedimenti le banche hanno avuto delle conseguenze fiscali e non fiscali di carattere negativo. È nemico delle banche? No, non è nemico delle banche, ha fatto pagare di più le banche. Io non dico che è nemico delle banche. Per capire.